Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria e stranamente ripartiamo dall'ultima notizia che abbiamo letto ieri proprio in finale di trasmissione alle 18:27. Erano arrivati i primi flash d'agenzia di fonti europee che dicevano, ormai la notizia è su tutti i giornali oggi chiaramente, di essere contrarie alle ipotesi avanzate dal governo italiano di elevare le tasse, ridurre, perché non in tutti i casi viene elevata, le tasse sulla casa, perché l'Unione Europea ha detto la nostra indicazione è stata chiara, vanno levate le tasse da IRPEF e IRAP, adesso la dico in maniera un po' sintetica, e invece casomai aumentate quelle sugli immobili e sull'IVA. Diciamo, senza dare un giudizio, l'Unione Europea dice la nostra indicazione, il Consiglio Europeo era molto chiara, una tassa di carattere, passatemi il termine, più patrimoniale, perché l'IMU, che è chiaro che è una patrimoniale sui generis, e anche l'IVA da alcuni economisti viene vista come una tassa che va a colpire più i patrimoni, cioè l'ammontare di un patrimonio perché hai più consumi, e togliere invece le tasse da lavoro e sulle imprese, e le tasse che vanno a colpire l'elemento produttivo, quindi il lavoratore e l'impresa che gli dà lavoro. Questo è un approccio che uno può discutere, personalmente chi vi parla è da sempre dell'idea che sia meglio ridurre IRPEF e IRAP, e lo sapete, e casomai, alla luce anche di una riforma del catasto vera e non discriminante, aumentare alcuni generi di IVA, e so già che questo farà arrabbiare i commercianti e chi lavora nel mondo del commercio, alcune forme di IVA e piuttosto la tassa sulla casa. Detto questo, e chi se ne frega poi soprattutto della mia opinione, il tema non è più ha ragione l'Europa o da un punto di vista della politica economica o ha ragione l'Italia, il tema è lo scontro che oggi si è realizzato, forse scontro eccessivo, ma insomma, tra Renzi e Bruxelles, e vediamo se riesco a mantenere la linea. Da questo punto di vista, secondo me, ha ragione il Presidente del Consiglio, per cui si può dare torto al governo, perché a mio avviso levare l'IMU, Tasi, è sbagliato rispetto e aspettare a ridurre l'IRPEF e l'IRAP è sbagliato, bisogna prima levare il carico fiscale sul mondo produttivo. Però è anche vero che un governo, a meno che non ci dica l'Europa che siamo commissariati, ha tutti i diritti di decidere che cavolo di politica fiscale vuole fare, di manovra finanziaria vuole fare. All'Europa deve interessare. Devono interessare due cose: che gli annunci abbiano, non siano annunci ma abbiano delle coperture economiche, quindi dove becca i soldi Renzi, e abbiamo fatto la settimana scorsa il calcolo di quanto costerebbe in tutto, sono 5 miliardi in più, poi ci sono 10 miliardi per scongiurare l'aumento automatico dell'IVA, sono 15 miliardi in più, una manovra in più, o comunque in più veri sono 5 miliardi per levare l'IMU e la Tasi sulla prima casa, e poi deve, sempre per quello che riguarda Bruxelles, mantenersi sotto o rispettare gli impegni, quindi per quello che riguarda l'Italia essere sotto il 3%, magari non faremo l'1.8, faremo il 2.2, ma insomma non violare gli impegni in materia di conti pubblici. Dove becca i soldi poi l'Italia? Saranno anche fatti dell'Italia. L'Europa può dare delle indicazioni, noi preferiremo una cosa, ma non è che può dire che non ci piace la manovra italiana, a meno che non venga detto che siamo commissariati. Nessuno si permette di dire una cosa del genere. In Germania, dove da tempo si dice aumentata la tassazione, per esempio, sui consumi, cercate di avere, anzi alleggerite la pressione fiscale sui lavoratori in modo che possano spendere di più e aumentare i consumi interni tedeschi, e così anche il resto d'Europa beneficia di questa Germania che è l'unica che cresce. Nessuno si permette di dire alla Francia, attento, vai a tassare di più alcuni privilegi, per cui attenzione su questo. E ripeto per l'ultima volta, poi partiamo con le notizie in breve, anche perché questo sarà uno dei temi principali della puntata, assieme alla scuola e alle decisioni e alle reazioni anche sui precari. Attenzione, perché può essere, uno può essere d'accordo con Bruxelles che sia meglio aumentare IRPEF e scusatemi, diminuire IRPEF e IRAP e aumentare o tenere invariate IMU ed IVA, ma sul fatto che Bruxelles possa dire sì o no a come facciamo quadrare la manovra, a mio avviso ha totalmente ragione il governo italiano. So che ho messo in crisi quelli che volevano iniziare a insultarmi dicendo che siamo filo renziani, perché abbiamo criticato Renzi per la manovra, ma abbiamo dato ragione a Renzi per quello che riguarda la posizione, e adesso è un problema. Però a mio avviso, al di là della battuta, dimostra che cerchiamo di dire esattamente le cose per come le vediamo e non per come qualcuno vorrebbe che le vedessimo. Renzi ha detto oggi: il taglio tasse lo decidiamo noi, non Bruxelles. Una Unione Europea che volta le spalle ai migranti ora non può spiegarci il fisco. Beh, insomma, la palla Bruxelles l'ha alzata facile al Presidente del Consiglio. Bruxelles che si sveglia solo perché adesso i migranti arrivano in Germania o arrivano nella periferia del centro Europa. Faccio notare che oggi è partito anche il viaggio di Radio 24, la nostra Valentina Furlanetto è a Budapest. Oggi viaggio di Radio 24 sulle rotte dei migranti, viaggio che durerà un mese con vari giornalisti inviati di Radio 24 dall'Ungheria alla Grecia, alla Turchia, alla Sicilia, per cui in tutti i punti di frontiera o le faglie, come le chiamano alcune di questa Europa. Però è chiaro che è un'Europa che è codina o fa come le tre scimmiette finché non tocca poi i paesi del centro Europa, perché non è che gli sbarchi e i profughi e i corpi galleggianti di bambini e donne li vediamo solo da 2-3 settimane. E però prima il problema non c'era, adesso che tocca i tedeschi, gli ungheresi, i cechi, probabilmente i finlandesi, gli svedesi, gli olandesi, il problema c'è. Allora, per favore, e poi sempre Renzi che ha detto che il 16 dicembre sarà la data del funerale delle tasse sulla casa. Ripeto, io ritengo che sia sbagliato levare l'IMU, ma tant'è. Su questo il leader della Lega ha detto che lui è pronto a votare l'abolizione dell'IMU da parte del governo Renzi, quindi mi sa che sono abbastanza da solo in questa, se maggioranza e opposizione sono d'accordo in questa tesi. Andiamo avanti con le altre notizie di carattere internazionale. Partiamo dal petrolio. Oggi è stabile dopo che due giorni che volava tra più 3 e meno 5 a 45 dollari al barile, nel giorno in cui comunque l'Unione Europea ha confermato le nuove sanzioni per Mosca, e anche gli Stati Uniti hanno confermato nuove sanzioni. Mosca ha detto che risponderà non necessariamente in modo simmetrico e che però la decisione americana sta distruggendo consapevolmente le basi della normalizzazione dei rapporti tra Russia e Stati Uniti. Questo nel giorno in cui Obama può cantare vittoria sul tema Iran. Ha raggiunto infatti la soglia minima di 34 senatori necessaria per blindare l'accordo sul nucleare iraniano, e adesso ha i numeri per sostenere l'eventuale veto del presidente se il congresso dovesse bocciargli l'intesa con l'Iran. Oggi due dati positivi dall'America, leggermente sotto le attese: sia gli ordinativi all'industria più 0,4 contro un più 0,9, sia i nuovi posti di lavoro creatisi nel settore privato, 190.000 posti di lavoro nel mese di agosto contro i 200.000 attesi, leggermente più bassi. Una notizia che è oggi su Sole 24 Ore, che immagino piacerà molto ai tassisti, ma che in realtà arriva dall'America ma apre nuovi scenari in quella che viene cosiddetta, che viene definita l'economia della condivisione, quindi dall'economia del possesso: io compro un bene, ce l'ho, all'economia dell'utilizzo: io affitto il bene, condivido fin quanto mi serve e lo condivido. Questa è una dinamica molto chiara, adesso non possiamo fare una piccola puntata di sociologia dei consumi, però Dagli Stati Uniti è arrivata la notizia c'è una class action, quindi un'azione legale collettiva avviata ieri contro Uber e quindi contro i 160.000 autisti di Uber in California, perché solo in California sono 160.000. L'azione legale dovrà determinare se i 160.000 autisti di Uber devono essere trattati come dipendenti della società, come succede nei normali contratti di lavoro delle società di taxi tradizionali, e non come contractor. È chiaro che se il tribunale stabilisse che gli autisti di Uber sono dipendenti a tutti gli effetti, Uber dovrebbe farsi carico dell'intero costo degli autisti, e quindi il modello della condivisione, della sharing economy, non dico che verrebbe a vacillare, ma sicuramente ne uscirebbe indebolito, perché la sharing economy si basa proprio sull'idea della condivisione, non del fatto che tu sia un mio dipendente. Ancora veniamo all'Italia, la borsa più 0,74% Milano, più 0,43% Parigi, più 0,44% Francoforte, più 0,47%, insomma siamo sempre a 0,4%, Londra, l'America più 0,90%, euro quota 1,12%, i titoli Saipem oggi pesanti, realizzi meno 4,81%, bene invece la Pop Milano più 3,80, Azimut più 2,70, Intesa San Paolo più 2,20, Atlantia più 1,70 come la Pop Emilia Romagna, 1,5, Mediaset 1,30% rialzo sia di Luxottica che di Telecom Italia. Altre notizie che riguardano l'Italia, visto che parlavamo di IMU e di TASI, gli italiani che hanno la casa di proprietà sono 7 su 10, siamo sopra la media europea, i proprietari sono al minimo in Germania dove sono solo il 52%, a metà strada Danimarca, Francia e Regno Unito. Faccio notare che al primo posto, se non so se questa classifica voglia dire qualcosa, ma è la Romania. Cioè, i paesi più ricchi e dinamici d'Europa non sono quelli in cui c'è la maggior percentuale di proprietari della casa. Non sto dicendo che sia sbagliato, sia un segno di modernità, do solo la classifica, per cui al primo posto in Romania, dove il 95,6% dei cittadini ha la casa di proprietà, poi c'è l'Italia dove siamo al 70%, Francia e Gran Bretagna al 60%, Germania al 50%. E non sto tornando sulla polemica dei genitori che invece che spendere i soldi per fare studiare i figli o dargli la possibilità di formarsi pensano come obiettivo alla casetta da comprare al figlio, così poi se non l'hai formato questo sta a casa disoccupato a farsi le canne guardando la parete. Sto tornando sul tema della classifica in senso stretto. Allora, partiamo dal primo tema, visto che parliamo di scuola e di Renzi, sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio oggi, e alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio oggi sono dedicati i 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, la firma di oggi del Vice Direttore Salvatore Padula, ricordo che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Manca ancora un mese e mezzo al varo del disegno di legge di stabilità, ma è chiaro che Matteo Renzi non intende affatto rinunciare all'abolizione delle tasse sulla prima casa, a promessa a più riprese. Lo ha ribadito ancora oggi, replicando alle indiscrezioni secondo cui la Commissione europea non vedrebbe di buon occhio il taglio del prelievo immobiliare. E Renzi lo ha detto chiaramente: il 16 dicembre sarà il funerale della TASI, si pagherà cioè cioè la seconda rata del 2015, e poi dal prossimo anno la tassa sparirà. Guardando sempre alla legge di stabilità, c'è però un altro tema, ed è il tema delle pensioni, sul quale le intenzioni del governo non sembrano altrettanto chiare. L'obiettivo è di ammorbidire la riforma Fornero, di rendere più flessibile l'accesso alla pensione, anche perché, e oggi lo hanno fatto intendere sia il ministro Poletti sia il presidente dell'INPS Boeri, questo allentamento potrebbe avere effetti positivi sul mercato dei giovani e aiutare i giovani a trovare un'occupazione. Però, insomma, individuare una soluzione non sarà facile, specie una soluzione in grado di conciliare da un lato le esigenze dei conti pubblici, perché ogni modifica alla legge Fornero peserà sulle casse dello Stato, sia l'esigenza di non scaricare sui lavoratori il costo dell'uscita anticipata, cosa che evidentemente renderebbe non conveniente qualsiasi forma di flessibilità e uscita anticipata dal mondo del lavoro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Anno non c'è più IMU e TASI. Italiani, segnatevi la data del 16 dicembre, che è l'ultima scadenza, la seconda rata quest'anno dell'IMU e della TASI. Quello è il funerale della tassa sulla prima casa. Sarà l'ultima volta in cui gli italiani pagheranno la tassa sulla casa. Punto. Questo lo decidiamo noi, non Bruxelles. Parliamoci chiaro, un'Europa che si gira dall'altra parte quando ci sono i barconi pensa di venire a spiegarci cosa fare sulle tasse? Cioè, c'è qualcuno a Bruxelles che, mentre l'Italia è sostanzialmente sola a salvare vite umane e a salvare anche la dignità, non soltanto dell'Italia, dell'Europa, di fronte a quello che accade, c'è qualcuno a Bruxelles che pensa di mettersi a fare l'elenco delle tasse che dobbiamo tagliare o non tagliare noi? Insomma, spero sia stato il caldo. Probabilmente c'era caldo anche a Bruxelles e noi non lo sapevamo. Quindi le tasse che tagliamo le decidiamo noi. Voglio dire, per un affabulatore e con la parlantina del Presidente del Consiglio, ripeto, l'Unione Europea ha alzato una palla clamorosa, ma voglio dire, ma era ovvio, no? Ma come gli viene in mente alle fonti europee? Adriana Ceretelli è tornata, Adriana Ceretelli, ma non è il barometro, non è il barometro Ceretelli, perché la Grecia per ora... Ecco, se devo fare una precisazione al Presidente del Consiglio, c'è l'Italia, ma c'è anche la Grecia, che sta sopportando un carico pazzesco anche in proporzione agli abitanti quanto ai migranti, per cui non è solo l'Italia. Però adesso ascolteremo anche la risposta, che non è una risposta, il portavoce della Commissione Europea Annika Breithart. Anzi, Breithart, ascoltiamola subito, e poi voglio il primo commento di Adriana Ceretelli. Siamo consapevoli dei recenti annunci circa il piano sulle tasse in Italia. Non abbiamo altre informazioni oltre le recenti dichiarazioni pubbliche. La legge di stabilità sarà valutata in autunno, quando avremo ricevuto il piano di bilancio sul 2016. La valutazione sarà basata sui fatti, su quello che sarà contenuto nella legge e sugli ultimi dati basati sulle previsioni economiche della Commissione. E vorrei aggiungere che, come sempre, ci atterremo ai fatti. Chiarisco a chi mi scrive che io pago l'IMU e secondo me dovrei pagarla anche di più, nel senso che se poi andiamo a vedere i catasti di questo paese fanno ridere, ci sono palazzi di altissimo valore che, siccome stavano in zone considerate non di pregio, pagano un'IMU ridicola. Allora, questo è il tema, e ribadisco che a mio avviso, se devo scegliere tra ridurre le tasse su chi produce e chi lavora o ridurre le tasse su chi ha un immobile o alti consumi, perché beato lui se lo può permettere, quindi l'IVA, preferisco la seconda. Che è ovvio che la cosa migliore sarebbe non, o sarebbe ridurre le tasse di tutti e due, sia di IVA che di IMU che di IRAP che di IRPEF, però dovendo scegliere, meglio liberare risorse su IRPEF e su IRAP. Detto ciò, non è questo, ne parleremo dopo, della politica economica del governo. Qui il problema è, Adriana Ceretelli, se non siamo di fronte a un'Europa che ha perso l'ennesima buona occasione per stare zitta, perché nessuno ci crede. Le fonti europee di ieri erano tutte imbeccate, le agenzie, perché sono usciti flash su flash. Qualcuno voleva che questo commento, che questa analisi giungesse chiaramente al governo italiano. Adriana? Sicuramente è noto che diciamo, tra gli orientamenti europei c'è sicuramente quello di privilegiare il calo delle tasse sul lavoro rispetto a quelle sulla casa. Detto questo, diciamo, è sicuramente molto conturbante l'approccio del Presidente del Consiglio quando dice appunto non mettono il becco quando ci sono problemi seri come quello di immigrazione, mettono il becco laddove non dovrebbero. La frase, dico, è molto conturbante e dentro c'è del vero, ma c'è anche dell'altro che è vero, cioè che il famoso patto di stabilità rafforzato, il famoso fiscal compact, tutte le regole che ci sono oggi nell'Eurozona consentono sempre di più all'Europa, intesa come Bruxelles, come partner, eccetera, di entrare nella valutazione delle politiche economiche dei suoi Stati membri. Tant'è vero, non ci dimentichiamo che con il famoso semestre europeo il bilancio, le leggi di stabilità, il bilancio nazionale annuale deve essere presentato per una visione e una sorta di via libera prima a Bruxelles che al Parlamento stesso, Parlamento nazionale. Quindi è vero e non è vero che l'Europa non ha, diciamo, dei poteri intrusivi in questo tipo di problematiche. È evidente che non ha dei poteri di veto, nel senso che non ci può imporre di abbassare l'IMU, l'IRPEF o quel che si vuole, però certamente ha poteri di condizionare l'orientamento degli Stati membri. Il caso della Grecia mi pare che sia stato patente sotto questo aspetto. Non dico che l'Italia è in una situazione del genere, però quello che voglio dire è che sempre di più Bruxelles dice agli Stati membri, perché ne ha il potere, perché gli Stati membri gliel'hanno dati con gli accordi sottoscritti e ratificati durante la crisi, le ultime crisi, insomma, ha il potere di indirizzare gli Stati membri e di fare pressione perché questi indirizzi vengano seguiti. Certo. Quindi tu dici, questo è un tu po' dici, il punto. Tu dici, attenzione, è molto conturbante, ma conturbante è tutta una parola o conturbante? Perché sai che c'è chi dice che no, sia anche un incantatore, che sia anche un incantatore di serpenti. No, vabbè, sì, al di là della battuta, è molto ad effetto, e io ho detto, hanno alzato una palla pazzesca al Presidente del Consiglio, che giustamente... Questo è bravissimo, riconosciamoglielo, l'ha schiacciata subito. Però l'Europa non è che abbia parlato fuori dal vaso, per usare, si dice in un altro modo, ma io uso parlato fuori dal vaso, certo. perché in realtà dopo quello che è successo nel 2011 con il fiscal compact, con i nuovi accordi, le viene riconosciuto sempre un maggior ruolo di indirizzare le manovre economiche. Dopo il meteo e la pubblicità, però vorrei capire un'altra cosa. Allora, o noi facciamo finta di avere a che fare solo con dei ragionieri, che poi è la critica più forte che viene fatta a questa Europa insipiente, così senza volto, anonima, se non diciamo quando... E allora il ragioniere è uno che, con massimo rispetto per i ragionieri, non deve fare nessuna valutazione di carattere politico. Dice, scusate, però noi avremmo preferito IRPEF e IRAP, anzi abbiamo dato indicazioni chiare, perché la frase non era così mobile, abbiamo dato indicazioni, va contro le indicazioni che il Consiglio europeo ha fornito all'Italia. Oppure immaginiamo che l'Europa sia invece un soggetto politico e uno dovrebbe anche pensare, ma prima di aprire bocca con quello che è il tema europeo unico e vero, che non è la Grecia, abbiamo già perso troppo tempo, ma sono le ondate migratorie, ti conviene aprire il fronte italiano su una manovra che è ancora tutto da vedere, sapendo che il vero problema sarà, a mio avviso, in autunno per l'Europa, la Francia, che sta crescendo meno delle attese e col cavolo che arriva vicino al 3% del deficit? Vorrei la tua analisi, c'è un problema di tu mi puoi dire, no, guarda, quelli sono come dei robot e parlano senza considerare l'effetto politico delle loro azioni, e va bene, allora prendiamo atto che abbiamo un'Europa fatta così. di tecnocrati ma anche di basso livello, oppure qui c'è qualcuno che non capisce bene il peso che hanno le parole, perché mi sembra che di tutto abbiamo bisogno, con le pressioni sulle frontiere, pressioni che non smetteranno, il rischio che uno Stato come la Francia non riesca neanche ad andare vicino a quanto ha promesso, ti conviene aprire il fronte con l'Italia regalando una grandissima palla al Presidente del Consiglio? Dopo il meteo, la tua analisi. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta. Due precisazioni. La prima: è vero che l'Europa deve valutare prima nel nostro Parlamento la manovra, ma non c'è scritto che debba dirci anche deve valutare se la manovra rispetta le promesse dell'Italia. Secondo aspetto, guardate che a chi mi dice che sto facendo le piroette per slinguare il governo, ho ribadito in maniera molto chiara che al di là delle piroette, a me piaceva di più quello di ieri che ha detto impiccati con l'elastico, però dico, al di là delle piroette, abbiamo detto che personalmente riteniamo sbagliata una manovra su IMU e TASI, che può avere dei grossi fini elettorali. Certo, se il problema è consenso elettorale, la casa, ce ne insegnano i governi di centrodestra, è un veicolo di consenso elettorale, però se vogliamo parlare di paese, produttività del paese, rilanciare un paese, riduci le tasse a chi lavora e a chi produce, assieme a ridurre la spesa pubblica e a combattere l'evasione fiscale. Comunque, la domanda per Adriana Ceretelli era un'altra. Non è, cioè, o abbiamo a che fare solo con dei ragionieri che parlano senza sapere le conseguenze delle loro parole, dei tecnocrati di basso livello, oppure qui c'è un'Europa che non capisce il peso politico e la situazione politica, cioè che vive, come alcuni l'accusano di vivere, in un altro mondo. Adriana. Ma diciamo che l'Europa per certi aspetti è stata sempre quella dei ragionieri e prevalentemente quella dei ragionieri, proprio perché in realtà non è mai stata veramente Europa, dunque essendoci una certa sfiducia reciproca ci volevano i ragionieri per fare i conti che poi in realtà venivano truccati, per cui sappiamo benissimo tante storie come sono andate, oppure quando i conti venivano fatti non piacevano a paesi potenti come la Germania o la Francia, allora si cambiavano i patti per non sottostare alle regole dei numeri, ma insomma l'Europa è fatta di queste cose. Ma direi che con l'avvento della Commissione Juncker c'è stata però una forte apertura anche a un'interpretazione più flessibile delle regole, per cui all'idea che i paesi che fanno più riforme degli altri, che hanno i conti migliori degli altri, avranno margini di manovra maggiori degli altri in termini di investimenti naturalmente destinati allo sviluppo, non ad aumentare le spese. Ora però su questa flessibilità c'è un margine di discrezionalità che è tutta, diciamo, sulle spalle della Commissione all'inizio e poi sui ministri dell'Eurogruppo che decidono sulla base delle proposte della Commissione. Allora, è chiaro che l'Italia deve stare dentro certi parametri e dentro quei parametri, se ci sta, ha dei margini di discrezionalità su quello che vuole fare. In particolare non ci dimentichiamo che sulle tasse vige ancora il voto all'unanimità, dunque la sovranità nazionale è totale. Questo però in teoria, perché come vi dicevo, in realtà poi gli Stati membri hanno firmato e ratificato patti vari di rafforzamento della governabilità dell'euro che fanno sì che la loro libertà esista, sì, ma di fatto limitata dal potere di indirizzo che hanno Bruxelles, che ha Bruxelles in generale, quindi anche sulla fiscalità, quello che dicevo prima, tasse sul lavoro, meglio ridurre quelle che non quelle sulla casa. E poi eventualmente multe nel caso di sfondamento dei parametri, ma questo non è il nostro caso. Nel caso dell'Italia però non ci dimentichiamo che c'è quel famoso vincolo dell'anno prossimo con l'entrata in vigore con il Fiscal Compact della riduzione del debito dei famosi 40 miliardi all'anno, a meno che non ci siano dei fattori specifici che ci possano in qualche modo allentare diciamo, questo parametro, che è sicuramente pesantissimo. E io penso che sia proprio il fatto che abbiamo queste regole che si vogliono flessibili, a patto che le azioni dei governi di riforma e di rigore siano credibili, sì, che abbiamo questa spada di Damocle dei 40 miliardi dell'anno prossimo, che però potrebbero diventare, diciamo, più flessibili in una chiave interpretativa più ragionevole. Tutte queste cose fanno sì che i governi abbiano un po' il fiato sul collo. Non ci dimentichiamo, la Grecia è una crisi che non è detto che sia superata, in autunno comincerà il negoziato sul debito, non si sa bene come finirà. Sì, no, no, hai ragione Adriana, a me, mi sbaglierò io, mi sembra che alcuni governi, un po' come nella fattoria degli animali di Orwell, siano tutti uguali, però alcuni animali sono più uguali di altri. Cioè, io questo fiato sul collo alla Germania per diminuire le tasse sui lavoratori, per aumentare i consumi interni, non l'ho visto, ma mi sarà sfuggito. Tu sicuramente segui molto meglio di noi tutte le dinamiche. No, non ti è sfuggito perché non esiste, cioè non esiste nella maniera più assoluta, però la Germania è in una situazione di conti pubblici, non ci dimentichiamo che la Germania è al secondo anno, quest'anno sarà al secondo anno in di surplus bilancio. Quindi vuol dire, e non ha il debito che abbiamo noi. Noi non ci dimentichiamo che siamo un paese che resta un sorvegliato speciale, sì, non siamo al commissariamento della Grecia perché non c'è nessun motivo per. Però certamente le nostre dimensioni, la situazione del debito, le riforme che sono avviate, ma che molti dicono, insomma, che i dividendi e le attuazioni sono ancora da verificare. Ci sono tante cose che fanno sì che le antenne di Bruxelles sull'Italia siano particolarmente attente e sensibili. E tutto sommato ci dà fastidio, ma sono legittime, per il semplice motivo che abbiamo firmato quei patti di rafforzamento della governabilità, e lì non c'è niente da fare, ci dovevamo pensare prima. Ah, ma beh, oramai vabbè, siamo su questa barca, sì, questo vabbè, è il punto. Allora, mi è chiarissimo il tuo punto, cioè guardate che Bruxelles ha il diritto all'interno di questi accordi di farlo. Io purtroppo a Bruxelles, come diceva Kissinger, manca un prefisso telefonico dell'Europa, cioè manca qualcuno che ne risponda per tutto. Tu citi Juncker, io poi vorrei sapere a ottobre che ne sarà del piano Juncker e quello che doveva far partire gli investimenti in Europa. Secondo me non ci sono i soldi, quindi sarà un piano destinato a fallire. Il problema vero è che se ci fosse una testa pensante per l'Europa, forse farebbe anche delle valutazioni di carattere più politico, non inizierebbe a creare ulteriori tensioni, aumentando il consenso poi contro l'Europa, contro questa Europa. Però hai fatto bene a precisare che dopo gli ultimi accordi l'Europa ha tutti i diritti per dare un suo commento sulla qualità, non solo sul risultato della manovra, anche nel caso italiana. Sta più zitta, fa un po' la debole con i forti, la forte con i deboli, ma questa è una mia idea, sta più zitta su altri paesi. Grazie. Da Bruxelles, editorialista del Sole 24 Ore, Adriana Ceretelli, il traffico. Focus Economia. Adesso la borsa, poi la scuola e anche di nuovo la manovra. La borsa, dicevo, oggi poco mossa, Milano più 0,7%, Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,30%, Londra più 0,60%, il Dow Jones guadagna lo 0,80%, euro a quota 1,12, bene la Pop Milano più 4,43%, Intesa San Paolo più 2,5%, Azimut più 2,40%, Atlantia più 1,5 come media, 7 Luxottica, l'1,30 lo guadagna il Banco Popolare e l'1,20 Telecom Italia. Debole invece, anzi male, Saipem meno 5%, Autogrill meno 1,60, Jux meno 1,5, Tenaris meno 1,40, Enel Green Power meno 1%, Mediolanum un perde lo 0,80, come CNH, Ferragamo, mezzo punto percentuale di calo. destra. Chi si è mosso bene? Oltre ai titoli citati, segnalo anche Unicredit più 1%, Campari più 1%, come la Popolare di Emilia Romagna e Mediobanca. Lo 0,90% guadagnano invece A2A e Unipolsai, ma anche il Monte dei Paschi di Siena in recupero. Moncler più 0,70%, Ubibanca porta a casa lo 0,60% come Tod's. Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora Eleonora, non è che sia una giornata memorabile, insomma un po' di volatilità, dati macroamericani a luce ed ombra, abbiamo detto un po' più bassi del previsto i nuovi posti di lavoro nel settore privato e più bassi del previsto gli ordinativi. Domani la Fed è domani? No, domani è chiusa, sono chiuse le borse cinesi, stavo guardando una notizia arrivata in agenzia adesso, domani sono chiuse le borse cinesi e anche dopodomani, Eleonora, se non ricordo male, per questo tranquillizza un po' i mercati e domani c'è la BCE, se non ricordo male. Sì, esatto, infatti si può fare un quadro generale, gli investitori sono molto cauti, oggi c'è stato questo rimbalzo delle borse europee ma senza troppa convinzione, questo perché appunto ci sono numerose incognite che sono l'economia cinese da una parte, Wall Street dall'altra, con la Federal Reserve che il 16 e 17 potrebbe decidere di aumentare il costo del denaro. Poi storicamente Wall Street è sempre andata male nel mese di settembre, in media da anni, dal 1927 ad esempio ha perso oltre l'1%, quindi gli investitori stanno alla finestra. Un dato importante sarà comunque in calendario venerdì, quando in America verranno pubblicati i dati sui nuovi posti di lavoro, una cartina tornasole importante per le decisioni della Federal Reserve. Poi domani parlerà Mario Draghi al termine del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e, come se non bastasse, venerdì e sabato ci sarà anche il G20, per cui tanta carne al fuoco anche ovviamente per i mercati che hanno navigato un po' con grande incertezza. Sì, visto che citavi tutti gli appuntamenti, molto minore rispetto al G20, ci mancherebbe la BCE, c'è anche il forum e il workshop Ambrosetti a Cernobbio, qualche dichiarazione di sotto sulla finanza, sulle operazioni. Arriva, noi saremo in diretta come ogni anno da lì venerdì. Faccio notare che quest'anno arriverà anche il Presidente del Consiglio Renzi sabato, se ben ricordo, che l'anno scorso aveva criticato Cernobbio, non mi ricordo più cosa aveva detto, insomma, dandogli del luogo da salotti mentre lui andava nell'economia reale, evidentemente ha cambiato idea. Andiamo avanti invece sui singoli titoli. Che è successo a Saipem? Saipem è andata male per tutta la giornata, ma soprattutto ha accelerato al ribasso nel finale. Che dire, del resto il petrolio ha di nuovo imboccato con decisione la strada del ribasso, sta ampliando le perdite proprio in questo istante, ad esempio perde il 3,2% a New York, il WTI addirittura sfondato al ribasso la soglia dei $44, si attesta a $43,93, quindi questo va a pesare un po' su tutto il comparto. Si è salvata Eni, beneficiando ancora della notizia dei giorni scorsi della scoperta del maxi giacimento, e così sul finale con un colpo di reni è riuscita a guadagnare mezzo punto percentuale. E questo per quello che riguarda appunto Eni, ma Saipem non ce l'ha fatta, meno 5%, dicevo debole anche Autogrill. Tra i migliori e peggiori segnalo, visto che ce lo chiedete, sì la Poligrafici Printing, ma soprattutto Caltagirone più 6,90%, EMS più 5,80%, Damiani più 5,70%. Il fronte opposto invece è rappresentato da Metorius Capital meno 8,60%, poi Iniziative Bresciane meno 6,15%, Astaldi meno 5,60%, Safebag meno 5,30%. Nel settore moda devo dire oggi c'è qualche recupero sul fronte cinese. Qualche recupero, citavamo appunto Luxottica più 1,5%, un po' meglio Moncler più 0,70%. In evidenza a un certo momento Cucinelli oggi? Sì, Cucinelli ha fatto 2%, è andata bene per tutta la giornata, e questo perché proprio il fondatore Brunello Cucinelli ha rassicurato sul fatto che di non essere preoccupato anche per il rallentamento dell'economia cinese, visto che alla fine i cinesi benestanti, i cinesi ricchi continueranno a comprare. Poi ha sottolineato che comunque per l'azienda Cucinelli il giro d'affari realizzato in Cina pesa solo per il 6% sul fatturato complessivo. Questo ha dato il là a un po' d'acquisti. Noi avevamo letto il 9 a suo tempo, però insomma adesso parte la campagna a minimizzare l'esposizione in Cina. No, scherzo, per carità. Prima tutti si vantavano della penetrazione in Cina, adesso tutto è precisare che la Cina non conta così tanto. Ti ho interrotto, Eleonora, prego. No, e quindi appunto questo ha favorito la società, non è invece riuscita a rimbalzare Ferragamo, che è molto esposta in Cina e anche oggi ha perso un altro mezzo punto percentuale. Grazie anche a Don Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso altro tema della puntata, tema che ha un carattere chiaramente sociale, ma anche fortemente economico, visto che si tratta del mondo dei precari e che il ministro Giannini ha annunciato oggi che vi sarà un secondo blocco di assunzioni che arriverà entro novembre, altri 55.000 precari il cui contratto verrà trasformato e quindi saranno definitivamente assunti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Decenni c'è stata la creazione di precariato. Ogni anno si creavano nuovi precari. Noi abbiamo detto: iniziamo a mettere un punto fine, un punto definitivo a questa vicenda, iniziamo ad assumere persone. Ovviamente nelle assunzioni poi c'è sempre chi non è contento perché deve spostarsi di qualche chilometro, perché è assunto magari non quando sperava lui, quindi ci sono tante polemiche, le abbiamo viste sulla buona scuola. Però la legge che ha fatto l'inizio della riforma non è che un inizio. La scuola non si risolve con un click in un mese. Poi ci sono dei problemi che sono grandi, che riguardano i singoli professori, le carriere dei professori, li rispetto, perché questi professori sono spesso stati presi in giro dalle istituzioni. È stato detto farai l'insegnante, poi invece gli è stato assicurato il precariato. Noi stiamo cercando di dar loro continuità educativa e didattica. Ovviamente poi il punto chiave della scuola, come diceva Don Milani, è quanti ragazzi perde, e quindi dobbiamo fare, non è tanto preoccuparci degli aspetti organizzativi, ma evitare che un ragazzo se ne vada. Allora così il Presidente del Consiglio in questa intervista di oggi a RTL 102.5 sulla riforma della scuola. Devo dire che di tutto si può criticare Renzi, ma non di non conoscere il tema, visto che sua moglie è precaria e tra l'altro, se ho ben letto, non è nemmeno nella lista dei primi 100.000. Il governo ha fatto partire le prime 55.000 assunzioni, 45.000 in realtà, le prossime 55 entro, come ha detto il ministro Giannini, entro l'autunno. Facciamo così, c'è il GR24, ne parliamo dopo GR24. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dubbi, domande, preoccupazioni. La vita di tutti i giorni è proprio piena di questioni da affrontare. Però un piccolo aiuto ve lo diamo noi, qui a Cuore Denari, la fabbrica dei consigli utili. Firmati dai nostri esperti e facili da mettere in pratica. Benessere, salute, prevenzione, risparmio, lavoro, casa e famiglia. Allora appuntamento come sempre, da lunedì al venerdì, ma attenzione, nuovo orario. Vi aspettiamo dalle 10.30 alle 12, sempre con Cuore Denari. Con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone. Naturalmente, su Radio 24. Alle porte dell'Europa, Radio 24, lungo le rotte della migrazione. Subotiza, Edirne, Chop, Kos e Lampedusa. Sono le porte dell'Europa, luoghi di una frontiera su cui preme l'ondata migratoria di chi fugge da guerre e disperazione. Nel mese di settembre, Radio 24 con i suoi inviati vi porterà ai confini di un continente che si sente sotto assedio. Ogni venerdì, nei GR, in effetto giorno e in effetto notte. Il sabato mattina, nel reportage europeo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso della scuola e non solo. Abbiamo ascoltato prima del GR24 il passaggio del Presidente del Consiglio sulla scuola. In realtà poi gli elementi di maggior contenuto li ha dati, come era prevedibile, il Ministro all'Istruzione Stefania Giannini. È intervenuta presentando i dati dell'assunzione degli insegnanti, il piano. Abbiamo assunto 38.000 insegnanti, 20.000, 29.000 ad agosto, 9.000 ieri notte. Poi ci sarà un secondo blocco di assunzioni che saranno effettivamente in classe entro novembre, giuridicamente effettuato entro settembre, ma in classe entro novembre, e poi altri 55.000 assunti appunto per i posti di docenza saranno fatti nella prima metà di novembre. Sentiamo questo passaggio. Noi ad oggi abbiamo assunto 38.000 insegnanti nella scuola italiana, 29.000 hanno avuto il contratto ad agosto, 9.000 hanno avuto stanotte, come sapete penso, la proposta di assunzione che si completerà entro l'11 di settembre. Sono 10.000 insegnanti in più rispetto all'anno scorso, circa un po' più del 30% per la scuola italiana. Faremo poi un secondo blocco di assunzioni che partiranno giuridicamente ed economicamente tutto quanto il primo di settembre, ma che entreranno in classe entro la prima metà di novembre, entro il 15 di novembre. Sono assunzioni nuove di potenziamento di insegnanti in più, l'abbiamo già detto ma lo ripeto, circa 7 insegnanti per scuola, complessivamente 55.000 insegnanti, che deriveranno in questo caso dal fabbisogno che le scuole ci comunicheranno tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Allora, Claudio Tucci del Sole 24 Ore, che segue tra l'altro anche i temi della scuola, buonasera. Sì, buonasera a te, ciao. Allora, Claudio, il ministro ha spiegato i tempi, cioè 29.000 ad agosto, 9.000 ieri notte e poi il giro degli altri 55.000. Sette insegnanti in più per ogni scuola, anche qui per evitare la propaganda, non sono sette nuovi, cioè questi erano insegnanti precari che già operavano nel sistema scolastico. Facciamo un po' di chiarezza, hai ragione, perché... no? In realtà gli assunti al momento sono 29.000. Che hanno coperto il turnover, sono assunti che sono stati appunto coperto il pensionamento e fatti ad agosto. I 9.000 in più che dice oggi il ministro sono in realtà i precari che già lavorano come supplenti, che hanno ricevuto l'assunta lettera di assunzione, cioè una mail. Cioè questa mail loro dovranno accettarla entro l'11 settembre. Esatto. Di questi 9.000, 7.000 dovranno trasferirsi di regione, cioè c'è una mobilità. Quindi allora aspetta, perché le cifre sono importanti. 29.000 sono gli stabilizzati, precari già immessi in ruolo. E va bene, quelle ci sono. Poi ci sono 9.000 che hanno ricevuto qui ieri notte a mezzanotte. Entro mezzanotte la mail. Esatto, la mail del Ministero per dire che loro hanno diritto a essere immessi in ruolo ai sensi della riforma del maxi piano d'assunzione e dovranno in provincia X. In questa provincia dovranno loro ora esprimere volontariamente, accettare o rifiutare questa proposta d'assunzione e lo devono fare entro l'11 settembre. E di questi 9.000, circa 7.000 hanno ricevuto la lettera d'assunzione per l'immissione di ruolo in una provincia lontano da casa, ha detto il ministro. Ora, chiaramente non è una deportazione, come dicono i sindacati, è un dato fisiologico. Quello che invece, questo è la prima fase delle assunzioni, poi 55.000 che si aggiungono a questi 38.000 sono insegnanti che saranno per la prima volta in assoluto una scuola italiana legati a una singola cattedra, cioè sono chiamati docenti dell'autonomia. Questi insegnanti sono legati ad ambiti disciplinari, cioè ciascuna scuola, una delle novità, probabilmente quella un po' più per il personale, un po' più importante della riforma appena approvata, è quella appunto che assegna alle scuole la possibilità di individuare un fabbisogno di personale aggiuntivo. Ma era la famosa autonomia dei presidi, poi molto sì, la famosa autonomia delle quella scuole, poi molto, scuole molto ridotta, esatto, non è il potere che hanno i presidi, le scuole hanno la possibilità di indicare nel piano l'offerta formativa una serie di insegnamenti che devono essere potenziati, che devono essere potenziati, questi no? Insegnamenti potenziati potranno contare su 55.000 docenti, okay. Questi docenti il ministro oggi annuncia per la prima volta che saranno assunti a novembre, ovviamente è molto ottimistico, questi tempi saranno sicuramente cavalleranno a dicembre, probabilmente sì, a ma gennaio. Quindi saranno operativi per la scuola da gennaio, da quando? Saranno operativi per la scuola, sì, fine dicembre, gennaio, per ad essere ancora ottimisti, tenete conto che appunto per essere assegnati alle scuole, intanto bisogna che le scuole individuino il fabbisogno, certo, le materie che vogliono potenziare, il fabbisogno occorrerà a queste materie, l'ufficio scolastico regionale dovrà validarlo, passi il Ministero, dovrà poi sovrastare tutto il piano e poi dovranno iniziare a distribuire questi posti per scuola. Insomma, l'operazione è molto complicata. Anche perché immagino che una scuola possa dire vogliamo potenziare l'inglese, un'altra possa dire vogliamo potenziare le materie tecniche, un'altra possa dire, per cui non è che prendi 55.000 e trasformi un insegnante di educazione tecnica in un insegnante di inglese adesso. In realtà questo ecco perché sono legati alle cattedre, ma sono legati agli ambiti disciplinari. In realtà una notizia che è passata un po' sotto piano della conferenza stampa oggi del ministro, che ha avuto molto coraggio in realtà a dire tutti fuori i numeri, è il fatto che in questa prima fase di assunzioni molte cattedre non hanno avuto il candidato per essere assunto. Che vuol dire questo? Vuol dire che nella scuola italiana ci sono una serie di posti che le graduatorie di esaurimento hanno esaurito i candidati e quindi rimarranno scoperte. Questi posti sono matematica alle medie e le materie le scientifiche alle superiori. Questo appunto era. Mancano insegnanti di matematica, matematica e discipline connesse, beh, sì, sia matematica dei superiori, insomma, studenti scientifici, materie scientifiche. Allora andiamo con ordine, perché tu hai chiesto intanto che 29.000 sono già a ruoli, 7.000, i 9.000 di ieri notte. E di cui parlava il ministro Giannini, hanno fino all'11 settembre, data così per sbaglio, per caso, ma evocativa, hanno il tempo per dire se accettano o no. Se non accettano, escono però dalla classifica, dal piano di assunzione. Ora, prima correzione al ministro, che come tu ricordavi ha avuto comunque il coraggio di affrontare i numeri. Non si può dire 7 insegnanti in più, nel senso che questi erano già insegnanti. Ha ragione il ministro, invece, 7 insegnanti in più per ogni scuola, nel dire che, attenzione, i 7.000 docenti in mobilità, di questi 9.000 di ieri notte, 7.000 dovranno trasferirsi. Non ho capito perché le agenzie titolano il grosso dei trasferimenti sarà verso il nord, da sud a nord. Vabbè, diciamo che il grosso sarà da sud a nord. Di 7.000 su 9.000. Il ministro ha fatto notare, attenzione, che è più o meno lo stesso numero dell'anno scorso, con una differenza, che mentre l'anno scorso questi trasferimenti erano fatti da insegnanti supplenti, questa volta invece avranno il posto fisso, come ha ricordato in questo passaggio. Il tasso di mobilità è quello fisiologico, perché di tutti questi che ho detto si muoveranno 7.000 insegnanti. L'anno scorso 7.700 insegnanti si sono spostati dalle loro sedi per una supplenza, quest'anno quelli che lo vorranno potranno farlo per un posto stabile di ruolo nella scuola pubblica. Questo dà dignità e possibilità di progettare la loro vita. Allora, intanto ringrazio perché ci ha raggiunto in collegamento anche l'economista Gustavo Piga, che è insegnante Tor Vergata. Buonasera, professore. Buonasera, come sta? Bene, grazie, sapevo che lo avrebbe chiesto. Voglio dedicare poco spazio alle polemiche, anche perché mi sembrano veramente misere, ma insomma, Claudio, queste polemiche sull'insegnante che deve, intanto, come scrivono molti ascoltatori, se non vuole accettare il posto fisso al nord, visto che di questo stiamo parlando, può sempre uscire dalla graduatoria e cercarsi un posto in una scuola privata. Adesso non è che siamo obbligati, se riesce a trovare un posto fisso in una scuola privata vicino a casa. Perché mi sembrano polemiche su cui anche i sindacati hanno perso un'altra occasione per dimostrare che sono un po' più moderni di come vengono descritti. Concordo pienamente. tutte le economie moderne la mobilità geografica è un fattore normale e naturale, cioè si va dove il lavoro c'è. Cioè, tenete conto che la scuola è sempre stato un ambiente molto sindacalizzato, nel pubblico impiego non ce ne eravamo accorti, però esatto, è molto sindacalizzato. Infatti la polemica, hanno parlato anche parole grosse, deportazione, cioè, ma come si fa a parlare di deportazione quando tu dai posto? Ma esatto, non ti obbliga, allora, c'è un piccolo differenza, la deportazione, come purtroppo che è un tema serio, era obbligata, cioè non veniva, non sceglievi se montare nel carro merci, visto che i sindacati non hanno senso del limite delle volte. Qui si tratta di dire: vuoi stare nelle graduatorie? Ti abbiamo trovato un posto a, come ne so, Reggio Emilia, a Varese, a Pordenone, e se vuoi hai il posto fisso come insegnante lì. Tu ti fai due calcoli, dici: no, non mi conviene perché ho mio marito, perché ho altre cose. Perfetto, esci dalle graduatorie e farai un altro lavoro. Benissimo, mica ti vieni criticata. Però dire che è deportazione, non lo so. Piga, mi vuole fare una battuta su questo, poi arriviamo anche a Bruxelles e le stime sul PIL. Ma non è che viene fuori la vecchia retorica e il malpancismo di questo paese? No, ma c'è un momento di enorme difficoltà per il paese, bisogna tener conto anche di questo. I bilanci delle famiglie sono in grossa difficoltà, i trasferimenti, è vero che in parte i trasferimenti sono dei trasferimenti costosi, stiamo in un momento in cui qualsiasi mossa di questo tipo, queste si chiamano riforme, no? Beh, l'abbiamo saputo, le riforme funzionano meglio quando il clima economico è ampiamente positivo, è vero che si va dove il lavoro c'è, però è molto più semplice se riusciamo a fare le politiche che generano il lavoro. Quindi voglio spezzare una lancia, perché è un clima estremamente difficile in questo momento. Basta guardare i dati che sono usciti fuori sul mezzogiorno, sul lavoro nel mezzogiorno. Guardi che fanno abbastanza paura. Fanno impressione, e lo stiamo raccontando anche quando il mezzogiorno non era un problema. Però adesso devo dare le informazioni sul traffico. Io questa volta sono in disaccordo con lei, per un motivo anche, diciamo, concettuale. Non gliene frega niente a nessuno degli operai, delle cantiere dell'edilizia, di quando nel settore privato stiamo assistendo da anni a nuovi flussi migratori. Si dice: beh, è giusto che uno vada a cercare il lavoro dove c'è. Poi però, se questo avviene con gli insegnanti che erano precari, che vengono stabilizzati, gli viene dato il posto di lavoro a tempo, sono assunti e devono fare quello che purtroppo tutti siamo d'accordo che sarebbe bello, che vi fossero meno flussi migratori, che il sud avesse la stessa ricchezza, ma saremmo in un altro paese. Però quando è nel settore privato non frega niente a nessuno, anzi si dice: come fai a non avere tornitori, fresatori nelle industrie del nord? Questo vuol dire che gli italiani sono viziati. Poi se però lo dicono gli insegnanti, apriti cielo, parliamo della deportazione. Resti con noi, Piga, resta anche con noi Claudio, ho il traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Claudio Tucci, un'ultima nota su quanto annunciato oggi dal Ministro, che sembra marginale ma non è. Il fondo di funzionamento verrà assegnato la prossima settimana. Mi sembra importante, se è vero quello che ha detto il Ministro, cioè che è più che raddoppiato rispetto al 2014. È importante, è vero, è importante. Cioè, di solito questo fondo lo scorso anno era 110 milioni, si dava sempre a dicembre, a gennaio, e si davano i 4/12 meccanismo perverso. Quest'anno la riforma della scuola anticipa i tempi, il Ministero ha trovato soldi in più, si arriva a 233,9 milioni ed è una boccata d'ossigeno per le scuole, che lo avranno, appunto, lo sarà comunicato a settembre, lo avranno materialmente a fine settembre, primi di ottobre, comunque all'inizio dell'anno scolastico. Qual è l'obiettivo, appunto, di questo fondo? Sono soldi che vengono spesi per, appunto, per il funzionamento delle scuole. Di solito i presidi chiedono alle famiglie un contributo cosiddetto volontario, soprattutto alle superiori. Con questo potenziamento di soldi probabilmente, insomma, sarà ridotto, non sarà eliminato il fenomeno, ma si punta a ridurlo. Allora, grazie Claudio Tucci, e io voglio invece chiedere ancora alcune cose a Gustavo Piga. Vedo alcuni messaggi: provate voi a costruirvi una famiglia, una vita, continuando a essere deportato ogni X anni, vergogna. In questo caso infatti uno avrebbe l'assunzione. Uno può rinunciare e cercare un altro lavoro, ma dov'è il lavoro? Ho capito, allora uno prende atto che il lavoro non c'è, non è lavoro ma è schiavitù, e chi se ne frega se uno deve fare migliaia di chilometri, tanto lei, cioè io, ha il, diciamo, sedere al caldo a Radio 24, vabbè, la mia esperienza non conta nulla, però faccio notare che io quando ho dovuto cercare un lavoro sono andato a lavorare a Londra, che non era vicinissima al posto dove risiedesse la mia famiglia, i miei affetti, i miei amici. Poi uno nella vita, se può, cerca di lavorare dove più, c'è chi ama lavorare a Londra, non tornerebbe mai in provincia, al nord o al centro o al sud, perché c'è gente che scappa dalla provincia, c'è chi vive solo accanto ai suoi amici d'infanzia, sono scelte individuali. Il problema è che se poi non hai il lavoro, e che cosa vuol dire spostarsi di 1000 chilometri? Ho capito, devi rinunciare, farai due calcoli, io non ho detto che sia sbagliato rinunciare. Ho detto solo che non si può dire che è una deportazione se uno Stato dice ti assumo perché sei un dipendente statale, ok? E poi diventi illicenziabile, cosa che nel privato non avviene. Ti assumo, però ho bisogno di insegnanti nell'istituto X che si trova in Lombardia o in Piemonte e tu dici ecco io però abito in Puglia, mi stai deportando. Mi sembra un ragionamento folle e non solo perché abbiamo centinaia di migliaia di persone che fanno un altro ragionamento alle porte dell'Europa, la battuta è fin troppo facile. Professor Piga, dato su questo ho capito che la pensiamo in maniera diversa, sul fronte Roma-Bruxelles almeno la pensiamo nella stessa maniera, cioè posso essere d'accordo che fosse meglio, a nostro avviso, ridurre IRPEF e IRAP, cioè la tassazione sul lavoro e sulla produzione, su chi lavora e produce, e magari tenere l'IVA e l'IMU, però il governo italiano ha anche il diritto di fare la manovra che vuole in un'Europa che si sveglia solo ora sui migranti, che è stato un po', diciamo, il tema di oggi di Renzi. Professore. Allora, intanto le chiudo sulle deportazioni e concordo con lei che i termini vanno usati con molta attenzione, sento persone che parlano di euro-nazismo e bisogna mettere tutto in prospettiva, no? Però le posso dire una cosa, gli stipendi dei docenti delle scuole italiane sono del circa 30% in media in meno di quelli dei tedeschi, allora se tu gli aumenti il costo fisso del trasferimento a quel punto diventa molto più difficile, è molto più semplice tra virgolette forse immaginare un tedesco che si sposta data la differenza, questo bisogna tenerne conto, se disinvestiamo nella scuola poi ci possiamo anche aspettare di queste reazioni. No, allora, che lo stipendio degli insegnanti sia troppo basso perché andrebbe alzato introducendo anche il merito, però, perché poi quando c'è il tema del merito i sindacati non vogliono il preside che diventava despota, allora e vuoi solo, hai solo diritti, non hai doveri. Allora, introduciamo il merito, allora il preside veramente venga valutato e abbia la possibilità però anche di scegliersi gli insegnanti. D'accordissimo con lei, però scusatemi, fino adesso gli insegnanti che lavorano al nord a 1300-1400 euro sono penalizzati rispetto allo stesso insegnante che lavora al sud a 1300-1400 euro. Se poi lavori al sud in provincia e lavori al nord a Torino, a Milano o a Bologna sei ancora più penalizzato, ma non mi sembra di aver sentito levate di scuola. Allora introduciamo di nuovo i salari in base alla regione, al costo della vita, però non è che si affronta solo quando il governo decide che lo Stato decide che servono 7000 docenti al nord o al centro nord più che al sud, mi sembra un po' speciosa. Comunque resto della mia idea su Renzi e Bruxelles, lei come la vede, chi ha ragione? Ma le dico, ci sono tre grandi errori fondamentali, rapidissimamente. Il primo è l'idea continua di questo governo di pensare che abbassando le tasse senza fare la spending review questo abbia un effetto espansivo, che la gente quando ha del liquido in tasca maggiore in questo clima non si convince finché non vede la riduzione degli sprechi che quei soldi possono essere finalmente spesi perché nessuno verrà a bussare dopo a richiederglieli. Quindi se qualcuno si aspetta da qualsiasi tipo di riduzione di tasse, in particolare quelle proposte da Renzi, un miglioramento del ciclo è una pia illusione senza spending review. Secondo errore forte, quello di pensare che se mai facessimo la spending review dovremmo usare quei soldi per abbassare le tasse piuttosto che invece spenderli per fare gli investimenti pubblici, che a quel punto lei può fare benissimo perché siccome fa la spending review e sa combattere gli sprechi non c'è nessun problema di dire che gli investimenti pubblici sono pieni di sprechi, non è possibile, sarebbe una contraddizione in termini. L'ultimo grande errore è quello di dire io comunque ti abbasso le tasse però ti prometto che tra 3-4 anni il deficit te lo riduco dal 3% allo 0%, come questo governo seguendo l'Europa fa. Allora se Renzi dice che le tasse le decidiamo noi, Io credo che sia tempo che Renzi prenda il coraggio a due mani e dica anche che i deficit li decidiamo noi e li teniamo al 3%. Allora a quel punto lei c'ha la combinazione virtuosa, spending, risorse credibili, investimenti pubblici che funzionano, deficit che non riduce finché l'economia non riparte. Ma questo è un progetto per l'Italia e per l'Europa. Tutto il resto è campagna elettorale. Oh, poi voglio vedere chi dice che questo programma è renziano. Insomma, mi sembra che lei abbia bocciato in tutto. Ho capito l'ultima provocazione che condivido invece. Perfetto, Presidente del Consiglio, continua con questo ragionamento e dia all'Europa, non solo non ci dite come abbassare le tasse, come fare la manovra, ma decidiamo noi anche con che tempi arriviamo allo zero sul deficit, visto che tanto c'è un paese, ripeto, la Francia, che è ben lungi da vederlo. Vorrei dare un'ultima risposta attraverso gli ascoltatori al tema dei trasferimenti, dei se uno vuole accettare di essere assunto degli insegnanti, oltre al fatto che ci sono già migliaia di insegnanti che con quegli stipendi devono sopravvivere al centro-nord, non è che scopriamo improvvisamente che gli stipendi sono bassi perché qualcuno dal sud deve venire a lavorare al nord. Mi scrivono moltissimi poliziotti, infermieri e carabinieri che dicono: guarda, il carabiniere come è assunto, prende, lo mandano dovunque, e quelli cosa sono? Figli di un dio minore? Tutta la pena dei sindacati va per i precari del sud che vengono assunti e stabilizzati. E terzo aspetto, mi scrivono moltissimi, immagino commessi, viaggiatori e rappresentanti che si sparano 100.000 chilometri, quelli cosa sono? Deportati di professione? Grazie anche a Gustavo Piga, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.